si avvicinarono le figlie di Zelofkad, figlio di Efer, figlio di Galaad, figlio di Machir, che si chiamavano Macla, Noa, Ogla, Milca, Tirza. Stettero davanti a Mosè, davanti al sacerdote Eleazaro, davanti ai capi e a tutta la comunità all'ingresso della tenda del convegno e dissero: «Nostro padre è morto nel deserto. Egli non appartenne alla lega che si radunò contro il Signore nella comunità di Core, perché morì nel suo peccato e non ebbe figli. Perché sarebbe sottratto il nome di nostro padre dal mezzo della sua famiglia per non aver figli? Dateci una proprietà in mezzo ai fratelli di nostro padre». Mosè presentò la loro causa davanti al Signore. Il Signore disse a Mosè: «Le figlie di Zelofkad hanno parlato bene. Da loro una proprietà in eredità in mezzo ai fratelli di loro padre, e farai passare l'eredità di loro padre a loro, e dirai così ai figli di Israele: se morirà un uomo e non avrà figli, farete passare la sua eredità a sua figlia. Se non avrà figlia, darete la sua eredità ai suoi fratelli. Se non avrà fratelli, darete la sua eredità ai fratelli di suo padre. Se suo padre non avrà fratelli, darete la sua eredità a chi gli resta più vicino della sua famiglia e ne entrerà in possesso. Per i figli di Israele sarà una norma di diritto, come il Signore ha ordinato a Mosè». Il Signore disse a Mosè: «Sali su questo monte degli Abarim per vedere la terra che ho dato ai figli di Israele. La vedrai e poi ti riunirai al tuo popolo anche tu, come si è riunito Aronne, tuo fratello, perché trasgrediste l'ordine datovi nel deserto di Sin, nella ribellione della comunità, quando dovevate santificarmi con l'acqua ai loro occhi. È l'acqua di Meriba, di Cades, del deserto di Sin». Mosè disse al Signore: «Il Signore, Dio degli spiriti di ogni carne, ponga a capo di questa comunità un uomo che esca davanti a loro ed entri davanti a loro, li faccia uscire e li faccia entrare, in modo che la comunità del Signore non sia come un gregge che non ha pastore». Il Signore disse a Mosè: «Prendi Giosuè, figlio di Nun, uomo che ha lo spirito, e imponi la tua mano su di lui. Poi lo farai stare davanti al sacerdote Eleazaro e davanti a tutta la comunità, e ai loro occhi gli darai gli ordini. Gli comunicherai la tua dignità, perché lo ascolti tutta la comunità dei figli di Israele. Starà davanti al sacerdote Eleazaro, che consulterà per lui il giudizio degli Urim davanti al Signore. Per ordine suo usciranno e per ordine suo entreranno con lui tutti i figli di Israele e tutta la comunità». Mosè fece come il Signore gli aveva ordinato. Prese Giosuè e lo fece stare davanti al sacerdote Eleazaro e a tutta la comunità. Impose le sue mani su di lui e gli diede ordini, come il Signore aveva comandato, per mezzo di Mosè.